Garibaldi fu ferito di una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da settembre a dicembre del 1823. Il nuovo Papa è Annibale Sermattei della Genga, si chiamerà Leone XII tra 2 anni il Giubileo. Stati Uniti parla il presidente Monroe, il continente americano libero dagli europei. Tra critiche ed elogi fa discutere l'ode di Manzoni dedicata a Napoleone Bonaparte. A 11 anni ed è un fenomeno, il giovane pianista Franz Liszt riceve i complimenti di Beethoven. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura, naturalmente, l'elezione del Papa. L'impegno sul quale il nuovo Papa sembra voler concentrare tutte le sue energie è il Giubileo del 1825. La macchina organizzativa da mettere in piedi è imponente ed è forse per questo motivo che Leone XII, Annibale Sermattei della Genga, eletto da un conclave più che mai diviso nel quale hanno vinto gli zelanti sui riformatori, ha deciso di applicare uno spoil system vigoroso. Subito fuori uno dei suoi rivali nella corsa al soglio pontificio, Ercole Consalvi, a lungo segretario di Stato e autore sotto il pontificato di Pio VII di qualche limitata apertura alle idee nuove. Si racconta del resto che della Genga ricevette in occasione della conferenza di Parigi del 1814 una dura reprimenda dallo stesso Consalvi per essere giunto in ritardo nella capitale francese. Consalvi è stato collocato alla guida della Congregazione per la Dottrina della Fede, di fatto emarginato, mentre al suo posto va Giulio Maria della Somalia, altro conservatore e altro papabile della vigilia. Non si può certo dire che i liberali abbiano avuto vita facile sotto Pio VII, ma la repressione che l'ascesa di Leone XII pare annunciare potrebbe essere molto più dura. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. E ora negli Stati Uniti, dove il presidente americano James Monroe, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, ha mandato un messaggio chiaro: nessuna ingerenza dell'Europa sarà accettata nel continente americano, nemmeno in quel Sud America che sta lottando per la sua liberazione dal colonialismo. La dottrina Monroe, così è stata chiamata e sintetizzata nella frase "l'America agli americani", sembra segnare un passaggio fondamentale nella contrapposizione tra quella che fino a 30 anni fa era appunto una colonia e il vecchio continente. Pubblicata da Marietti a Torino, sta facendo discutere l'ode il 5 maggio di Alessandro Manzoni, composta in occasione della morte di Napoleone Bonaparte. Tra i liberali non viene vista di buon occhio perché dedicata ad un uomo che ha ricercato e trovato il potere assoluto. Ancor peggio la vedono i protagonisti della restaurazione, a partire dagli austriaci che vi hanno apposto la censura. Nonostante questo, la diffusione è molto ampia, tanto che la prima edizione è stata pubblicata sulla rivista tedesca Über Kunst und Altertum e tradotta da Goethe. Si è appena trasferito a Parigi dopo il grande successo di Vienna, dove ha anche ricevuto i complimenti di Ludwig van Beethoven per un concerto che ha tenuto da appena 11 anni. È il pianista ungherese Franz Liszt, nuovo fenomeno del nostro tempo, del quale sentiamo in sottofondo la sua prima composizione, le variazioni su un valzer di Diabelli, tra i suoi maestri l'italiano Antonio Salieri. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento, fatelo prendendo penna e calamaio elettronici. L'indirizzo è sempre quello, gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.